fragile che sei un respiro nel vento. Ehi, ehi tu, che stringi al cuore ogni tormento, che non ti si veda più soffrire nel tuo blu, sei tu, che sei un respiro nel vento blu. Ehi tu, è la tua voce blu. Dalla finestra non c'è più quella barca ormeggiata nell'ala che te, che ogni volta che è un flash di e tu e quel flash blu che non trovi più ehi tu e quel flash blu che non trovi più, perso nella storia di un digiuno. Ehi tu, fragile che sei un respiro nel vento. Ehi tu, che stringi al cuore ogni tormento, che non ti si veda più sempre nel tuo blu. Ehi tu, che sei un respiro nel vento blu. Ehi tu, che è la tua voce blu.